Ma che bellissima. Bellissimo, bellissima, bellissimo. Chi che non si strutta? Thank you. Le globe, j'ai vu les extraterrestres. La madonnerie. Viens le globe. On va boire un chico. Viens la denrée. Viens le gars, on va ranger tes coups. Thank you.